Il coordinamento Lesbiche Romane presenta. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera e ben sintonizzate. Siamo di nuovo qui e ci facciamo reciproca compagnia. Quella che ascolterete tra poco è la nostra 190esima trasmissione. E diamo un grande benvenuto e una buonasera a Rossella, che per la prima volta fa la sua entrata dal vivo sulla radio. Buonasera Rossella, che è qui con noi. Alle apparecchiature abbiamo sempre la grande Annalisa, che cerca di farmi capire come funzionano. Io ci provo e io naturalmente sono Monica. Allora, durante questa trasmissione parleremo in particolare di lesbismo e omosessualità in Iran. Per farlo ci serviremo di un libro pubblicato recentemente dall'editrice Il Dito e la Luna e presentato circa 15 giorni fa presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma. Si tratta del Giardino di Shahrazad. Autrici sono tre lesbiche e una trans, indicate dall'acronimo VIDA. Ma per tutto questo a fra poco. Intanto ci aspettiamo numerose come sempre le vostre considerazioni. Solitamente avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione, come ormai sanno le veterane, attraverso l'invio di un sms al nostro numero di cellulare. Questa sera il cellulare se l'è tenuto Rosina, però voi messaggi mandateci lo stesso, perché li leggeremo quanto prima e soprattutto li commenteremo appena possibile insieme a voi, cioè con la prossima trasmissione. Vi ricordo il numero 338 41 46 68 2. Invece gradiremmo moltissimo i trillini qui, perché questi li potremo vedere, qui si accendono delle luci, quindi insomma è sempre una grande emozione. Vi ricordo il numero 06 49 17 50 per i vostri trillini. Visto che forse un messaggio potrebbe essere troppo sintetico, vi ricordiamo che come sempre potete scriverci. Indirizzate allora le vostre mail a contatti@clrbp.it oppure scriveteci, la vecchia carta non tradisce mai, a CLR presso Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. E ora proverò, pregate ardentemente, con la prima proposta musicale di questa sera. Vediamo se tutto funziona e va bene come dovrebbe andare. È un brano di Dulce Ponte, tratto da O Primeiro Canto. Nos madrigais, irá virou, brudar e a saia virou, tornar o dar, e outra vez girar, virou, onde é trás, trás, um, dois, três, virou, e outra vez atrás. Essere single in Iran è una malattia mentale, essere omosessuali in Iran è una malattia mortale. Chi pronuncia questa frase è Shahrzad, non la protagonista narratrice delle Mille e Una Notte, ma la donna lesbica iraniatana nata a Shiraz, che vive a Roma e studia civiltà del vino dell'antica Persia. Una donna che, con altre due giovani lesbiche e una transessuale, ha avuto il coraggio di denunciare le gravi condizioni delle minoranze sessuali in Iran. Le loro testimonianze sono state raccolte sotto l'acronimo di Vida, nel libro intitolato, come abbiamo detto, Il giardino di Shahrzad, inedito in Iran e pubblicato in Italia dal Dito e la Luna. Il libro nasce dall'incrocio di voci e di scritture diverse, quella di un diario, quella dei blog che prolificano sul web, quella tenera delle lettere d'amore e dei dialoghi fra donne. Ma lasciamo la parola al testo. A Fiumicino ho dovuto mettermi il velo prima di imbarcarmi su un Iran Air. Nel bagno dell'aeroporto c'era un'altra iraniana, più grande di me. Si è tolto il trucco, si è coperta la testa con un foulard e ha indossato un impermeabile beige. Faceva uno strano effetto d'estate. Io avevo una sciarpa striminzita e un rupush che il babbo e la mamma mi hanno portato quando sono venuti a trovarmi in Italia. Le altre donne ci guardavano con curiosità e sorridevano, solidali o impietosite. Quando sono atterrata a Teheran, le donne col chador mi hanno impressionata. Per anni le avevo viste solo in televisione e nei film iraniani. Ho ripensato ai miei capricci da piccola, quando volevo assolutamente un chador e la mamma me lo fece cucire dalla nonna. Lo indossai solo una volta, poi lo avvolsi attorno alla bambola di mia sorella per godermi l'effetto paracadute quando la lanciavo dal balcone del terzo piano. Tutte quelle ore con il velo addosso mi hanno stremata. Non è facile sopportarlo dopo tanto tempo. Cosa devo fare? Chiudermi in casa per non dovermi coprire? Il velo è il mio lasciapassare, il mio visto d'ingresso per l'Iran. Dicono che con il governo Khatami le cose stiano cambiando, ma io non mi fido tanto. Mi coprirò dalla testa ai piedi, sopporterò il caldo, sopporterò tutto. Poi tornerò in Italia e dimenticherò. Ho voluto rivedere la mia terra, camminare per le strade della mia città, sentirmi parte del luogo in cui sono nata e che ho rifiutato per anni. Chissà se ora sarò io a essere rifiutata. Per ora mi sento un'estranea, proprio come mi sento a volte in Italia, un paese che mi ha accolta senza darmi la cittadinanza. Per parlare di questo magico intreccio di voci, della sua nascita e della sua ideazione, abbiamo raggiunto via email, ovviamente, una delle attrici che ha risposto sempre via email alle nostre domande. La prima che ci è venuta spontanea a porle è stata: come vi siete conosciute e come è nata l'idea del libro? Ci siamo conosciute attraverso il web, i siti, i blog e le riviste online iraniane scritte sia da persone che vivono in Iran sia da persone che vivono all'estero. Eravamo entrate da un po' in contatto quando a un certo punto ci è venuta questa idea: perché non fare un libro? Perché non trasporre una parte di tutte le cose che abbiamo visto e che abbiamo letto? Ad incoraggiarci c'è stato il fatto che una di noi ha un rapporto forte con la scrittura, scrive cioè racconti e tiene da anni un diario. Abbiamo così pensato che con la pubblicazione del libro la virtualità sarebbe diventata anche un po' più realtà, visto che un libro è qualcosa che rimane, mentre la traccia virtuale è destinata a perdersi. L'idea è stata rafforzata dalle lezioni di Ahmadinejad. Subito dopo questa lezione ci è sembrato infatti che le cose sarebbero andate peggiorando, e così è stato. Ora c'è proprio un rischio reale di perdita della memoria, visto che la censura è diventata sempre più forte e nel frattempo molti siti web non esistono più. Perché avete deciso di pubblicarlo proprio in Italia? Quando ci siamo chieste dove lo pubblichiamo, la prima idea è stata di pubblicarlo negli Stati Uniti, perché lì vive la comunità iraniana più numerosa della diaspora di lesbiche, gay e transessuali iraniane. C'era inoltre una motivazione linguistica perché, come si sa, l'inglese è la lingua veicolare internazionale per eccellenza. Infine, sarebbe stato più facile, essendo quella nordamericana, una comunità organizzata con associazioni e siti. Poi però abbiamo avuto l'opportunità di pubblicarlo in Italia, anche perché una di noi vive in quel paese. Abbiamo immediatamente sfruttato l'occasione. Ci è sembrato infatti interessante uscire in una nazione come l'Italia, in cui c'è un'oppressione omofobica abbastanza forte, o almeno a noi sembra che forse sia il paese in Europa in cui ci sia l'oppressione più forte, probabilmente per via del Vaticano. C'è un punto molto interessante in cui voi affermate che in fondo tutti i fondamentalismi si incontrano e sembra che questo punto di incontro sia rappresentato dall'oppressione delle donne e di quelle omosessuali in particolare. Sì, infatti noi non volevamo assumere una posizione vittimistica e dire solo come stiamo male noi, soprattutto noi in Iran. Volevamo allargare un po' il discorso e fare in modo di dialogare con le altre e gli altri, soprattutto sulle forme di intolleranza collegate alle religioni. Ma questo non è sempre facile, neanche attraverso il web, perché spesso i nostri siti non sono conosciuti dappertutto e poi perché ci esprimiamo in genere o in inglese o in persiano. Inoltre, se da una parte volevamo denunciare l'intolleranza religiosa di qualsiasi volto, volevamo però anche narrare, fare cioè non soltanto un libro politico di denuncia, ma anche un racconto delle nostre storie d'amore. Di qui nasce la parte letteraria del testo. In fondo accade lo stesso sul web, soprattutto nei blog, che permettono di rimanere anonimi, ma anche nelle riviste online, sui siti, eccetera, dove le diverse strutture divengono anche luoghi di racconto personale, non soltanto di confronto sulle leggi, sulle tematiche politiche, sul diritto d'asilo, per esempio, o sui molti temi che ci riguardano. Abbiamo quindi scelto, anche per il libro, un intreccio fra verità e romanzo, e lasciamo parlare il libro. Khorshid.blogspot.com. A me il blog è servito per capirmi, per conoscermi meglio. Ora a volte mi sembra di avere due personalità, una reale, corporea, e l'altra virtuale. Qual è il mio vero io? Quello reale o quello online? Forse è diventato più vero il mio io virtuale, ma non è più un io, è un sé, dato che si rispecchia negli altri e che altri possono rispecchiarsi in me. Io non sono uscita dal mio guscio mentre facevo il coming out con me stessa, quando vivevo già all'estero. Sono uscita dal mio guscio quando ho fatto il coming out con le persone vicine e poi con la famiglia. Ma per trasformare il mio io in un sé, ho dovuto cominciare a confrontarmi con le persone come me e ad affrontare la società, che è sempre pronta a giudicarci. E ora facciamo un altro piccolo intermezzo musicale. Quello che abbiamo sentito prima era di Lorena McKennitt, All Soul Night. Adesso invece sentiamo un pezzo italiano da Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. stare con noi. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei Playboy, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane. Oggi siamo Rossella, Monica e Annalisa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Seguiteci sempre, mi raccomando. La nostra trasmissione va infatti in onda a partire dalle 21 tutti i martedì, mentre il martedì femminista e lesbica inizia alle ore 17 del martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo naturalmente chi ci ascolta via internet, ma ci farebbe molto piacere sapere anche da quale città ci state ascoltando, quindi mandateci un segnale. Se invece siete a Roma dintorni, diteci la zona e soprattutto come ricevete il segnale. Per fare tutto questo, naturalmente mandateci sempre gli sms al numero 338-4146-682, che prima o poi vedremo, ma soprattutto fateci i trillini, che ci sentiamo sole, 06-49-1750. Diteci che ci siete e che siete numerose. Ora riprendiamo, come dicevamo, a parlare del libro scritto da Vida, Il giardino di Scheherazade. Abbiamo chiesto alle nostre autrici: c'è un punto focale in cui si parla del fatto che anche all'interno delle comunità iraniane che sono andate all'estero, che hanno vissuto la diaspora, c'è sempre comunque un atteggiamento di chiusura nei confronti dell'omosessualità. Il coming out è comunque difficile, come se si trasportassero le chiusure su questo argomento. Perché queste comunità restano così chiuse, anche se all'estero potrebbero parlare, svelarsi, magari avere più facilmente dei rapporti di comunità? Dice una ragazza che scrive sul blog: noi lesbiche, gay, eccetera, siamo una minoranza della minoranza. In Iran non c'è soltanto l'oppressione sociale e politica, rappresentata dalle leggi, ma anche quella operata dalla famiglia, come forse un po' anche in Italia, ma da noi è molto più marcato. C'è il dentro e il fuori. La famiglia deve nascondere, deve tenere i suoi segreti di fronte alla società. L'omosessualità è uno dei crimini peggiori. La famiglia magari non la stigmatizza in maniera assoluta e cerca di nasconderla, perché, non dimentichiamolo, le leggi in Iran puniscono anche con la morte gli omosessuali. Tuttavia, se qualcuno dei membri è lesbica o gay o transessuale, è sempre una vergogna per una famiglia tradizionale, e non solo tradizionale, iraniana. Questo fatto permane anche con la diaspora, perché le nostre comunità rimangono abbastanza chiuse nel loro piccolo mondo. A volte ci si sposa soltanto fra iraniani quando si vive fuori. Noi lo raccontiamo infatti nel libro, quante volte abbiamo dovuto nascondere la nostra identità alle nostre famiglie e come è stato faticoso spesso fare il coming out, soprattutto con noi stesse o con noi stessi. Non è soltanto il peso della religione, è anche il peso di una tradizione difficile da rimuovere. Abbiamo quindi chiesto: che tipo di lettrice vi immaginavate mentre mettevate insieme il diario, i blog e le vostre esperienze dirette? Verso chi andavate con il vostro discorso? Precisando che a noi naturalmente interessano soprattutto le lettrici, le donne e le lesbiche. Noi punteremmo, sperando che il libro sia tradotto, sappiamo già che sarà tradotto in Spagna e stiamo cercando un editore in Francia e nel Nord d'America, a tutti quanti, i gay, le lesbiche o i trans. A un pubblico ampio, quindi, non solo agli iraniani e alle iraniane, ma anche alle comunità LGBT che vivono nei paesi occidentali, perché abbiano un'idea non solo di quello che si vive in Iran, ma anche di quello che noi vogliamo dire anche quando viviamo fuori, del nostro rapporto, delle difficoltà che incontriamo vivendo nei paesi occidentali, perché spesso c'è una chiusura anche della cultura autoctona. In Italia, per esempio, è sicuramente più difficile fare il coming out che in Francia o in Germania. E vorremmo comunicare, soprattutto in questo momento, il cui il problema della censura è talmente forte in Iran che anche i server che sono all'estero, i nostri siti, cioè, che sono gestiti dall'estero, non possono più essere letti in Iran ed è diventato sempre più difficile dialogare con gli iraniani e le iraniane che stanno in Iran. Vorremmo anche dibattere più ampiamente dei problemi che ci riguardano tutte, l'intolleranza religiosa, gli integralismi che si uniscono, perché è di questo che si tratta, non di un conflitto di civiltà, ma di fatto di una complicità, una connivenza tra integralismi. Vorremmo rafforzarci anche attraverso un rapporto con le lesbiche, i gay e i transessuali di altri paesi. L'idea del libro nasce anche da questo, dal desiderio di avere comunque una cosa che rimanga, che possibilmente venga tradotta e distribuita, forse anche in Iran, naturalmente sotto banco. Ancora dal libro. Doctarelezie persianblog.com. Ciao, eccomi. Sì, voglio cominciare ora. Voglio dire ad alta voce che io sono una ragazza omosessuale e lo dico con orgoglio. Voglio scrivere. Sapete fino a quando? Fino al giorno in cui nessuna ragazza si vergognerà più di pronunciare la parola omosessuale. So che ci riuscirò. Ed ora ripassiamo la parola alla musica. Un brano di Madeleine Peru, Carless Love, era il CD da cui lo prendiamo. Il titolo del brano è This is Heaven for Me. E proseguiamo con le domande che abbiamo rivolto alle nostre autrici. C'è un'affermazione che ci ha colpito sul separatismo. La figura femminile che tiene le fila del racconto ad un certo punto fa una riflessione sul separatismo e dice di non capire come si possa volontariamente scegliere la segregazione fra donne. Evidentemente la percezione è diversa quando si proviene da una cultura in cui il separatismo è imposto. Quindi, come si interpreta in questo caso il separatismo italiano? Come viene percepito, visto che una delle vostre colleghe vive in Italia e quindi ne ha avuto contatti? La segregazione sessuale in Iran è imposta. Poi non vuol dire che nella pratica sia sempre possibile. Ci sono molti paradossi nel nostro paese. Però è vero che il velo è proprio il simbolo di questa segregazione. Nascondersi, separarsi, lo strumento della separazione. Ci si potrebbe mostrare solo alle persone della propria famiglia, al cerchio più ristretto. Per noi è difficile pensare di sceglierlo. Per noi lesbiche è naturale stare fra di noi. Però se vogliamo organizzarci abbiamo bisogno dei maschi, di appoggiarci a loro, anche per il web e per i siti. I gay sono sempre più potenti, hanno sempre più mezzi, storicamente. Abbiamo tentato di costruire un sito unicamente lesbico, ma c'erano pochissime ragazze disposte a lavorarci. Un po' per la paura e un po' per i mezzi. Dunque è difficile fare una scelta come quella che è stata fatta in Occidente, anche perché il femminismo da noi è diverso. Ci sono le femministe islamiche che però non potrebbero concepire l'omosessualità e ci sono quelle più laiche che magari invece combattono contro il velo. Ci sono cioè varie forme di femminismo. Non c'è mai stato un movimento lesbico, quindi non può essere come nei paesi occidentali in cui c'è stato un movimento femminista molto forte, al cui interno si sono creati dei gruppi lesbici che poi si sono separati. La persona che pronuncia la frase che ricordavate è proprio la nostra amica iraniana che vive in Italia e che si chiede come sia possibile il separatismo. Però, siccome è entrata in contatto con le lesbiche e anche con le femministe lesbiche, che non solo lo rivendicano, ma lo vivono, il problema se lo pone in prima persona. Ma nonostante se lo sia posto e ne abbia discusso con le amiche italiane, lei non è una separatista, perché per lei è più importante andare contro una regola che è sempre stata imposta e che fa parte della tradizione. Il paradosso è però che questa segregazione sessuale imposta, spingendo le donne e anche gli uomini a stare insieme, favorisce poi in fondo l'omosessualità. Ci sono molte cose contraddittorie nel nostro paese. In effetti, nel libro dite che nel paradiso islamico non si parla solo di uri, cioè ragazze, ma anche di giovani uomini e di fanciulli. Quindi si può dire che non c'è una chiusura per un'esperienza omosessuale, anche se solo al maschile? Oppure già nell'Islam primitivo c'è una condanna forte dell'omosessualità? No, l'omosessualità fa parte della cultura e della tradizione orientale. Nel libro citiamo infatti molti poeti. I sufi l'hanno sempre praticata perché era un modo per sentirsi più vicino a Dio. Era un rapporto con la divinità non sempre sublimato. In realtà l'omosessualità, sia maschile sia femminile, ha sempre fatto parte della nostra tradizione, però è sempre stata in qualche modo condannata dalle religioni. Ancora prima dell'Islam, in Iran, il zoroastrismo la condannava. Lo condanna anche la Bibbia, la religione cristiana e non solo quella cristiana. Lo fa ad esempio anche l'induismo. Le religioni, soprattutto le religioni monoteiste, ma non solo, condannano l'omosessualità perché va contro uno dei pilastri di base delle religioni, e cioè la famiglia, che è un gruppo organizzato in modo da esercitare il controllo sul corpo, il controllo sociale sulla sessualità. Però nella nostra tradizione c'è, e c'è nella poesia, nel vissuto. Gli harem, che erano una forma di segregazione sessuale e non era certo una scelta per le donne, soprattutto nei paesi dove c'era la poligamia, come in Iran, anche se adesso sempre meno praticata, favorivano le pratiche omosessuali. Quindi l'omosessualità ci appartiene. Non sappiamo se appartiene di più alle culture orientali o a quelle altre, però sicuramente ci appartiene. l'Islam e il Corano, ma non solo, anche le parti che nel tempo sono state aggiunte, come i detti e le gesta del profeta, hanno stigmatizzato la negatività delle pratiche omosessuali. Abbiamo citato quel passaggio che descrive il paradiso coranico preso da un blog, perché ci ha colpito il fatto che fosse un uomo a ricordare che c'erano anche una sorta di angeli, come potrebbero essere definiti nella cultura occidentale, cioè dei giovani uomini il cui ruolo non era molto precisato. Non c'erano dunque soltanto le famose vergini, che tanto stuzzicano le fantasie degli uomini anche nei vostri paesi. D'altra parte, all'origine della cultura occidentale, Socrate è stato condannato proprio sotto l'accusa di pratiche omosessuali con giovani allievi. La vera differenza sta nelle leggi. L'Occidente ha avuto prima le leggi e la democrazia e può protestare. Questa è la vera differenza, perché a livello culturale ci sono molte affinità. In Iran si può pensare, ma non c'è libertà di espressione del pensiero. Da noi le tradizioni sono molto più forti e lo sono le leggi, anche se sempre si è cercato di lottare, già al tempo dello Shah. Ma in questi ultimi anni la situazione è molto peggiorata. Leggiamo ancora dal libro. shaitunank.blogspot.com. Una donna di nome Shirin ha dovuto subire un trapianto di cuore. Ma non trovando altri organi compatibili, i cardiologhi le hanno innestato il cuore di un uomo che lei aveva fatto soffrire e che si è suicidato per amor suo. Il trapianto segna una svolta nella sua vita. Si innamora di un'altra donna e diventa lesbica. Che vi pare di questa storia a lieto fine? Shirsang, blogspot.com, risponde. Ma non è che poi si suicida pure lei come il suo innamorato? shaitunank.blogspot.com ribadisce, le hanno trapiantato il cuore, non il cervello. E ora un'altra piccola pausa musicale. Vorremmo proporvi dal CD di Mercedes Sosa, Sera Possible il Sur, una canzone che si chiama Todo Cambia, sperando che sia un augurio per tutte quante. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, fare il movimento lesbico italiano per aiutare in modo concreto il movimento LGBT iraniano? Un'altra cosa che colpisce nel libro è infatti non solo l'invisibilità delle donne, ma la totale invisibilità delle lesbiche. Sarebbe importante, ad esempio, rafforzare la rete informatica? Sì, sarebbe importante, perché noi ci siamo resi conto che i nostri siti non si conoscono, che ognuno visita in particolare i siti del proprio paese, poiché in fondo ciascuno conosce la lingua del paese in cui vive. Le lesbiche francesi, per esempio, non leggono i siti delle lesbiche italiane e viceversa. Se i siti LGBT occidentali pubblicassero più spesso le notizie che arrivano, meglio che riescono ad arrivare, su quello che succede in Iran riguardanti la comunità iraniana, sarebbe già tanto. Chi di noi vive all'estero spesso non riesce a sapere come si vive in Iran. L'invisibilità è il vero problema, anche se le donne lesbiche in Iran di fatto rischiano meno perché la legge è un po' meno pesante per noi. Certamente siamo anche noi passibili di condanna a morte, ma ci vogliono almeno 4 testimoni maschi per condannare come lesbiche 2 donne. C'è però un uso politico di questa legge. Per esempio, i gay sono spesso mandati a morte con l'accusa di pedofilia perché fa presa sull'opinione pubblica, fa più presa sull'opinione pubblica. Con le donne è più difficile. È più difficile che una lesbica sia accusata di pedofilia. C'è stato un caso abbastanza recente di una donna che è stata identificata come lesbica a Teheran e che aveva aperto una palestra. Questi luoghi sportivi fortunatamente ci aiutano per gli incontri, anzi facilitano gli incontri. Il fatto non è stato pubblicato dai giornali. La donna non è stata trascinata in tribunale. Però, non appena è stata identificata come lesbica, hanno fatto pressioni, trovando scuse e costringendola alla chiusura. È difficile trovare la notizia che una donna è stata condannata a 100 frustate perché identificata come lesbica, però le lesbiche subiscono delle pressioni fortissime in famiglia. Come si sa, la visibilità è un problema generale, ma è molto più grave in Iran, sicché si sono trovate delle tecniche di sopravvivenza. Molte giovani, ad esempio, si travestono da maschi, si tagliano i capelli corti, ma non sempre è possibile farlo. Lo puoi fare quando giri per strada, se non ti scopri, ma non nell'ambiente di lavoro, per esempio. Quindi, cosa si può fare? Cercare di dialogare di più, anche se quelle fra di noi che vivono all'estero spesso si nascondono per paura di essere scoperte dalle autorità iraniane. È una questione molto complessa. Già parlare di un libro crediamo che sia molto importante. Però il problema è più ampio e va detto anche che non c'è probabilmente una conoscenza sufficiente dell'Islam. Si ripetono molti luoghi comuni, si dicono un sacco di cose, molte scemenze. Leggiamo adesso l'ultimo capitolo di questo bellissimo libro, che come avete compreso ci ha affascinate e che speriamo affascini anche voi. Ho cambiato casa, ora vivo nel centro di Roma, con le gatte Prizzi e Pride. La mia tesi di dottorato sulla civiltà del vino mi ha fruttato un contratto con l'università dopo anni di attesa. Ho avuto delle storie, ma nessuna ha sostituito Parvi nel mio cuore. La signorina Parsipur non si è risposata e non ha avuto una relazione con Roya, come avevo temuto. Il suo ex marito, invece, ha una nuova moglie e altri due bambini. Non pretende più di riprendersi la figlia che ha avuto con Parvin, Anaïta. Roya ora ha una ragazza fissa, Mahin, una cintura nera di karate che l'ha convinta ad arruolarsi assieme a lei nella prima squadra femminile di Vigili del Fuoco. È un lavoro ben pagato e molto divertente, dice Roya. Loro due vorrebbero andare a vivere insieme, come ha fatto una coppia di loro amiche, ma non si sa come reagiranno le famiglie. Parvin sta meditando di tornare a vivere a Los Angeles con Anaïta. Mi ha mandato un regalo per il mio compleanno, una splendida agenda istoriata con il calendario persiano. Quest'anno voglio vederti, Shahrzad Azizam. Sfoglia l'agenda e cerca un segno segreto. In quella pagina c'è la data in cui ci incontreremo di nuovo, ha scritto su un bigliettino. 14 anni di lontananza, prima del mio ritorno a Shiraz, più altri 7. Giusto la metà, abbiamo fatto progressi. Questo è l'anno in cui la rivedrò a Shiraz, a Roma o altrove. Rivedrò Parvin e da lei avrò quello che saprò prendere. Se non fossi lesbica, avrei potuto vivere idealmente in una remota epoca dell'antichità e attraversare i nostri tempi senza sognare un futuro assieme a una donna. Ora pare che il mondo vada all'indietro, ma non è così. Donia Migardè, si dice in Iran, il mondo gira e prima o poi tutti troviamo quello che cercavamo o credevamo di aver perduto. Non si può chiedere la luna, ma quando il sole non è nero, quando il sole splende nel cielo, il sole può chiedere la luna? Sì, no, forse. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia che vuoi farci è la vita. Mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria che vuoi farci la vita. La vita è la Mia. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente. gli appuntamenti. Partiamo ora con un'iniziativa molto interessante. L'8 novembre alle 20:30 all'Orpheus a Testaccio, l'iniziativa si chiama Plus Fam ed è in via Monte di Testaccio 53. È una serata un po' particolare che vuole essere qualcosa di diverso da una semplice cena e qualcosa di più di una semplice discoteca. Come ho detto, l'ingresso è alle 20:30 e il biglietto viene 12 euro e dà diritto ad avere un drink, un buffet, messaggeria e disco. Alle ore 23 l'ingresso è di 6 euro e dà diritto ad avere la discoteca, quindi si balla, si balla, si balla. Per prenotazioni, lesboinfo 347 88 34 556. Ricordiamo ancora che partirà dal 30 novembre questo bellissimo corso sulla donna spettatrice dell'arte, le nostre compagne l'hanno già ricordato, con l'artista e donna politica femminista dell'Udi, Pina Nuzzo. C'è tempo fino al 30 novembre per l'iscrizione, il primo incontro sarà proprio il 30 novembre con la donna musa ispiratrice spettatrice femminile. Si tratta di 6 incontri che si terranno dalle 19 alle 22. È prevista anche una visita collettiva serale alla mostra da Matisse Bornard in corso al Vittoriano. Ricordiamo inoltre che Pina Nuzzo, pittrice da anni impegnata nella politica delle donne, nel 1975 è diventata responsabile del Centro Donne dell'Udi di Modena ed è stata sempre attiva sia politicamente sia come artista ed è attualmente responsabile della sede nazionale in via dell'Arco di Parma a Roma. Per partecipare al corso è prevista un'iscrizione di euro 60 come contributo spese. Il corso naturalmente è per sole donne, a numero limitato, quindi per favore iscrivetevi, ricordatevi dati entro il 30. Per contatti, per informazioni eccetera, contatti @clrbp.it. E di nuovo la parola a Rossella per un'ultima cosa. Pensavate che chiaramente in questo pullulare di calendari anche noi non avremmo pensato un qualcosa? Ma certo che abbiamo pensato qualcosa. E care amiche, compagne e ragazze tutte, il 18 novembre sera presso il CLR in via San Francesco di Sales 1B ci sarà la serata Calendar Girl. Ragazze, il primo calendario fatto da lesbiche per le lesbiche con tante buone ricette. Controllate sul nostro sito l'orario di inizio dell'iniziativa. Vi aspettiamo numerose. E allora eccoci giunti alla fine di questa trasmissione, spero che siate state bene insieme a noi, ringraziamo ancora Annalisa che ha impedito che Monica facesse qualche azione in consulta e oscurasse tutto il segnale, invece ce l'abbiamo fatta. Di nuovo un grande saluto a Rossella per il suo debutto, speriamo che sia numerose. Ragazze, grazie che mi avete ascoltata, ciao ciao. Un bacione a tutte. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.